Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. No. Senti, caro, sono il generale Damigiani. Non ce la faccio. Generale, guardi, qua noi non possiamo andare avanti. Chi sei? Quello che vuole lei, ma non possiamo andare avanti. Dove stai, prima di tutto? Bene, generale, male, anzi, perché noi non possiamo andare avanti con questa telefonata. Perché mi stai telefonando? No, è lei che telefona, generale, è lei che telefona. Oh, e perché ti sto telefonando? Questo non lo sappiamo, non l'abbiamo mai saputo nella storia di alto gradino. Oh. Senti, ti trovi lì a portata di mano Arnapoldi, no. Busnelli, Marchiondi e Marmaglino? No, tutta così. D'accordo, allora chiamami tutti invece. No, non me li fa fare, per favore, tutti quanti, Arnacchiondi, Bernacchini e Marmaglini, io non li so fare. Non c'è nessuno. No, dico, non li sappiamo non fare. Bernacchino, noi. Siamo... Testone. Bernacchino. Chi ha detto Bernacchino? Noi sappiamo solo la Gattolla. Ho detto Arnaboldi, Bagliacino, Busnelli, Marchiondi e Marmaglino. Non ci sono, non sono... ci sono. Oh, sono... Fai una cosa, lasciameli perdere questi testoni. Oh, meno male. Senti, Marchiondi, che stai facendo? Cosa stavi facendo, Marchiondi? Vede, generale, noi non facciamo niente, stiamo facendo una trasmissione alla radio che lei interrompe regolarmente con queste sue telefonate. Che glielo dice? Che vogliamo fare? Me lo stai mettendo a verbale? Sì. L'assurda conversazione telefonica che avete appena ascoltato è una questione di normale amministrazione per i protagonisti che vi hanno preso parte. Si tratta dei brillantissimi conduttori di una delle trasmissioni radiofoniche più celebri della storia dell'intrattenimento italiano. Andata in onda per 6 indimenticabili anni, dal 1970 al 1976, le è bastato questo limitato periodo di tempo per cambiare per sempre la storia della radio, della TV e della comicità nostrane. Un programma poco serio per innata vocazione, ontologicamente goliardico, dedicato al divertimento puro e quasi privo di ogni sorta di limiti e vincoli. Con i suoi sketch, i suoi nonsense e le sue irresistibili indelebili battute, ha tenuto compagnia per moltissimi pomeriggi a una buona fetta di popolazione italiana. In quegli anni così duri, segnati dall'estremizzazione del dibattito politico e dalle sue più amare e atroci conseguenze, Alto Gradimento era il programma adatto a soddisfare l'estremo, irrinunciabile bisogno degli italiani di riderci sopra. Erano, ripeto, anni dui, e però a quell'ora lì c'era proprio il bisogno di sentire musica divertente e parole in libertà. La voce inconfondibile che ha pronunciato queste parole è quella di uno dei due conduttori di Alto Gradimento, uno dei mattatori che per anni hanno saputo allietare e alleggerire le giornate di tanti italiani. Lui, naturalmente, è Renzo Arbore. Renzo Arbore. Quindi è stata una trasmissione esemplare, perché è stato un modello. Ancora oggi non c'è stata una trasmissione più avanti di Alto Gradimento. Il modello rimane quello. Le trasmissioni che io ascolto alla radio, sia alla RAI, sia le altre radio, il modello sotto sotto rimane quello: musica e puttanate, cazzeggio, climax, personaggi inventati, le voci rubate come abbiamo inventato noi alla televisione, o voci rubate e usate per essere sfottute, musica divertente, non certo noiosa, ma insomma da lanciare, e parole in libertà. Questa era Alto Gradimento, e questo mi pare che siano un po' le trasmissioni che ancora oggi si sentono. Le parole in libertà sono diventate troppo in libertà, perché certo il linguaggio è cambiato, ma il modello, il prototipo è quello là. Un prototipo vincente, così funzionante da avere ispirato e dettato il passo alla comicità radiotelevisiva italiana degli ultimi 40 anni. Programmi come Mai dire gol o Lo Zoo, giusto per citarne un paio, hanno attinto a piene mani da quel prototipo. Un modello creato da Renzo Arbore con la complicità di un grande amico, dell'altra insostituibile metà di un duo di conduttori straordinari. Uno sentimentale, l'altro cinico, uno conciliante e l'altro spietato. Uno Renzo Arbore e l'altro Gianni Boncompagni. Gianni Boncompagni. Due caratteri diversi, a tratti opposti, eppure destinati a formare le due metà complementari di un perfetto tutt'uno comico. Dirti ciò che sento in cuore, ma indifferente. Non m'ascoltavi tu. Oh, quante volte gli amici hanno detto a me che passa, passa. Renzo Arbore e Gianni Boncompagni hanno entrambi due personalità forti e volitive, ciascuna arricchita da caratteristiche peculiari che la rendono perfettamente complementare all'altra. La leggenda vorrebbe dire che dei due Renzo fosse quello in qualche modo più pacato e riflessivo. Eppure la sua storia personale, innanzitutto, è quella di un folle e ardito sperimentatore. Dunque, io sono partito dalla jazz, che è improvvisazione. La grande caratteristica del jazz è che è la musica improvvisata per eccellenza e che ha un elemento meraviglioso che è lo swing, cioè il ritmo, il senso del ritmo. Credo che alla radio il senso del ritmo sia fondamentale, perché l'ascoltatore, se non ha il ritmo, dopo un po' cambia stazione oppure il cervello se ne va dall'altra parte. Quindi, e in più poi gode dell'improvvisazione, proprio del fatto che in quel momento le vibrazioni della tua voce non sono quelle di un attore che recita, ma quello di uno che parla in libertà, anche in una conversazione seria, non soltanto in quelle umoristiche. Il jazz, a ben guardare, è il vero filo conduttore della vita e della carriera di Renzo Arbore. Genere musicale splendido e complesso, restio ad essere rinchiuso in una, così come in mille spiegazioni, il jazz è piuttosto un sentimento, un flusso, un coacervo di sensazioni uditive ed emotive, fisiche, eppure impalpabili. L'improvvisazione è tra le sue caratteristiche principali e forse tra tutte è la più spiccata. Durante una jam session, il musicista jazz si lascia andare, travalica la geometria e le leggi degli spartiti per entrare in un territorio nuovo, sconosciuto, sperimentale. È proprio questo quel che fa Renzo fin da ragazzo, si dà alla sperimentazione. Eternamente curioso e assetato di vita, di esperienze e di esperimenti, il mood fascinoso del jazz fa decisamente al caso suo. Nato a Foggia nel 1937, già da ragazzo Renzo si distingue dai suoi coetanei e concittadini. Porta i blue jeans anziché gli abiti che sarebbe più lecito aspettarsi da un figlio della buona borghesia. Il padre, stimato medico, li chiama pantaloni da elettricista. Ai suoi occhi altolocati sembrano una divisa da bassa manovalanza, ma in realtà sono un segno di ribellione alle convenzioni, un grido di libertà e insieme una dichiarazione d'amore per l'America, la terra del sogno e del jazz. È proprio negli Stati Uniti, infatti, che è nato il genere musicale che Renzo adora. Il suo idolo è niente meno che Louis Armstrong. Ed è proprio seguendo le orme del grande Satchmo che Arbore si avvicina alla musica. Sarà un incontro folgorante e destinato a portare grandi frutti. Io devo tutto al jazz, cioè la mia passione, che è cominciata quando avevo 10 anni, 11 anni, poi 13, con i dischi americani lasciati dagli americani, dai liberatori, i cosiddetti V-disc, che io poi ho coltivato nel corso di tanti anni, anche strapazzando il mio clarinetto, eccetera. V-Disc non è altro che l'abbreviazione di Victory Disc, che sta per Disco della Vittoria. Si tratta di un'etichetta discografica che a ridosso della Seconda Guerra Mondiale produce dischi su cui sono incise le canzoni e le melodie che accompagnano i soldati statunitensi in giro per il mondo. Insieme alle truppe americane, dunque, in Italia arriva anche il jazz. E ci vuole giusto un istante, perché tra Foggia e New Orleans le distanze, incredibilmente, si accorcino. La passione jazzistica di Renzo si riversa prima sulla tromba, feticcio del suo idolo Armstrong, poi sul clarinetto. La sua carriera artistica inizia bazzicando i locali della città pugliese e suonando nei complessini insieme agli amici. I palcoscenici che calcano sono quelli del bar Biliardo Cavour, della taverna del Gufo. Renzo si diverte un mondo, ma Foggia, piccola città di provincia, forse è troppo stretta per le sue ambizioni. Occorre trasferirsi altrove. E qual è la città perfetta per sentirsi americani nel dopoguerra? Napoli, naturalmente. Tuo fa l'americano, americano, americano. Scendi a me chi do papà. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi siente disturbato. Renato Carosone prende in giro i giovanotti italiani che nel dopoguerra scimmiottano gli atteggiamenti e le abitudini dei coetanei d'oltreoceano. D'altronde è difficile non subire il fascino di quei luoghi lontani e delle note musicali che provengono proprio da lì, giungendo in Italia e sconvolgendo le abitudini musicali e le melodie tradizionali nostrane. A Napoli Renzo frequenta la facoltà di giurisprudenza di giorno, mentre di notte bazzica il quartiere americano. Viene scritturato dal club USO, acronimo di United States Organization, locale situato a Calata San Marco, dove ancora giovanissimo suona quasi ogni sera davanti ai militari della NATO. Giovane sì, ma decisamente intraprendente e incline all'improvvisazione, non solo nel jazz, ma più in generale nella vita. Questa passione mi ha insegnato anche tutte le cose che io ho fatto nell'altro settore dello spettacolo, la radio, la televisione, perfino il cinema, perché io ho carpito, per usare un tuo termine, dal jazz, la principale caratteristica del jazz, che è l'improvvisazione. La passione per il jazz gli insegna a buttarsi quando l'istinto glielo dice, anche se la componente razionale sarebbe incline a tirare il freno. Can't you hear that for a bad man? The happy tune is just a baby. Life can be so sweet on sunny skies. L'istinto di Renzo gli dice che a dispetto di una laurea in giurisprudenza deve tentare di perseguire la carriera artistica. Suo padre lo vede già inquadrato, brillante avvocato penalista in uno studio di provincia. Eppure lui cerca qualcosa di diverso, un percorso alternativo, un tracciato al di fuori dei sentieri convenzionali percorribili da un giovane di buona famiglia. Renzo vuole tentare la fortuna, forse fare il musicista, forse chissà. E se si è in cerca di una chance in campo artistico, Roma è il posto giusto per trovarla. Nei caffè e negli alberghi di Via Veneto, negli studi di Cinecittà o, perché no, in quelli della RAI. Renzo entra spavaldo negli uffici di Via del Babuino numero 9 in cerca della sua occasione. Decide di partecipare a un concorso, ignaro del fatto che la compilazione di quel modulo di iscrizione sarà il suo lasciapassare per una vita completamente diversa da come l'aveva pensata. Allora, 1964, esame alla RAI per maestro programmatore di musica leggera alla radio. Il maestro programmatore di musica leggera, in sostanza, è un modo un po' antico e formale di chiamare il disc jockey. Renzo, da grande appassionato di musica, non può non sentirsi perfetto per quel ruolo. Sogna di scegliere i dischi dei suoi adorati cantanti e jazzisti americani. Sogna di poterli far sentire alla radio permettendo a una miriade di altre persone di conoscerli e apprezzarli. Ed è proprio lì, fra i banchi del concorso RAI di maestro programmatore, che Renzo incrocia il destino di un altro ragazzo appassionato di musica e di vita. È un esame scritto e orale, e compagno di banco nella parte orale è il tale Gian Domenico Boncompagni, aretino, un personaggio molto vispo che praticamente faceva il fotografo per la RAI, perché era appassionato di fotografia, però voleva fare questo esame per maestro programmatore per avere i dischi gratis, perché i programmatori avevano i dischi gratis, cosa che poi puntualmente si è verificata. Renzo Arbore e Gian Domenico Boncompagni, detto Gianni, si ritrovano ad essere vicini di banco durante l'esame presso la sede della RAI. Sembra quasi di vederli. Il turbolento Gianni che rompe immediatamente il velo di compostezza del più pacato Renzo, il quale, da bravo improvvisatore, a sua volta si lascia andare a una serie di battute e amenità. Basta così poco, dopo tutto, per far nascere un'amicizia. Ci siamo incontrati io e Gianni. Gianni ha capito che io ero bravo, perché era molto furbo, e quindi insieme ci siamo messi a lavorare a un programma televisivo, radiofonico, che si chiamava Bandiera Gialla. Grandissimo successo, presentato da Gianni Boncompagni con la complicità e la corresponsabilità di Renzo Arbore. Gli esaminatori della RAI, accortisi immediatamente del talento e della straordinaria, irresistibile complicità di Arbore e Boncompagni, decidono di affidar loro una trasmissione radiofonica a partire dall'anno seguente. Bandiera Gialla sarà un aggregato di canzoni diverso dai programmi musicali andati in onda fino a quel momento. Spesso e volentieri trasmissioni, come lo storico Discobolo degli anni 50, costruite più in base ad esigenze di promozione discografica che non a criteri estetici o comunque legati al gusto personale del conduttore. Bandiera Gialla, invece, sarà una trasmissione diversa. Sarà a suo modo una rivoluzione. Grandissimo successo, primo programma radiofonico nella quale liberamente venivano trasmessi i dischi dei Beatles, dei Rolling Stones. Avevamo licenza di mettere dei dischi che non passavano all'esame dei soloni della radio, che invece dovevano controllare tutti i dischi che passavano per radio, che dovevano passare per radio. Bandiera Gialla va in onda sul secondo canale radio dal 16 ottobre 1965 al 9 maggio 1970. Una trasmissione che brilla di luce propria, distinguendosi da tutte le altre nella RAI di Ettore e Bernabei, che non solo vive una situazione di totale monopolio nel panorama radiofonico nazionale, ma è anche alle prese con le logiche di lottizzazione già esistenti, in qualche forma, nella seconda metà degli anni 60. La fetta maggiore di consenso politico e quindi di spazio mediatico, naturalmente, va alla Democrazia Cristiana. Incastonata in una programmazione totalmente allineata alla cultura pedagogica e cattolica, Bandiera Gialla invece si staglia come un raro gioiello dal punto di vista della selezione musicale e come una sorta di covo anarchico per quel che riguarda la conduzione. Ragazzi, dalla lampa di lancio, chi ha detto la lampa? Dalla rampa di lancio di Via Asiago in Roma stanno per entrare in orbita di 12 dischi di Bandiera Gialla, dischi scelti e presentati da me, che sono Gianni Boncompagni, con la complicità di Renzo Arbore e la regia di Massimo Ventriglia. Su con la sigla e gli applausi! Lo stile goliardico e apparentemente disimpegnato di Boncompagni e Arbore diventerà ben presto una cifra stilistica inconfondibile e imprescindibile. Le esigenze pedagogiche e quelle promozionali della RAI scompaiono di fronte al gusto di far sentire bei dischi accompagnandoli con battute sagaci, giochi di parole, un ritmo veloce, serrato, travolgente. C'è una cosa che ho sempre ammirato in Boncompagni e mi ha sempre in qualche modo sedotto, è proprio che Boncompagni cura in maniera maniacale l'estetica del programma. Carlo Freccero, celebre autore televisivo e attuale direttore di Rai 4, sa bene che dietro l'impressione di scioltezza e totale improvvisazione si nascondono in realtà una bravura e un'intelligenza fuori dal comune, unite a una fortissima consapevolezza estetica d'insieme. Gianni Boncompagni e Renzo Arbore sono una coppia affiatatissima e inarrestabile, e il successo di Bandiera Gialla per loro sarà solo l'inizio. One, two, three. Destini incrociati. Destini incrociati sta seguendo le carriere appena nate di due giovani conduttori radiofonici. Sono Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, mattatori di Bandiera Gialla, trasmissione musicale in onda nella seconda metà degli anni 60 sul secondo canale di Radio Rai. Bandiera Gialla e i suoi presentatori hanno il merito di portare sulle frequenze del bel paese un bel po' di quella musica straniera, americana e inglese, che fa impazzire i giovani, ma sembra lasciare ancora indifferenti alcuni dirigenti della RAI. Il meccanismo di Bandiera Gialla è semplice. Vengono proposte 4 terzine di canzoni, quasi esclusivamente straniere, e il pubblico di giovani presenti in studio esprime le proprie preferenze con grida, applausi e utilizzando le bandierine in dotazione. Alla fine della trasmissione, la canzone che ha prodotto l'esito più chiassoso, a giudizio insindacabile di Boncompagni, prosegue la selezione diventando canzone regina e meritandosi di essere riproposta nella puntata successiva ed eventualmente in quella seguente, fino a quando non viene sconfitta da un altro brano. Il tutto avviene in comune accordo con le case discografiche, che provvedono a munire di fascetta o di bandierina, gialla naturalmente, le copertine dei brani vincitori per individuarli meglio negli scaffali dei negozi di dischi. Le logiche discografiche, dunque, non sono totalmente ignorate in Bandiera Gialla. Stavolta però la scelta delle canzoni parte dal basso, dalla base, e non dal vertice dell'industria. Quello di Arbore e Boncompagni è un programma popolare e coinvolgente, lo specchio di un paese che ha voglia di aprire i propri orizzonti a suon di musica straniera. Sono Renzo e Gianni, finalmente, a sdoganarla. Dietro i microfoni di Bandiera Gialla nasce dunque un sodalizio fortunatissimo e destinato a dare frutti ancora per parecchi anni. E da lì è nato un sodalizio che poi si è moltiplicato dopo Bandiera Gialla con un programma inventato che si chiamava Autogradimento. Anche lì la funzione di Boncompagni è stata determinante, perché Gianni, che tra le sue caratteristiche ha una certa pigrizia, non voleva scrivere i testi della trasmissione come allora si faceva in tutte le trasmissioni radiofoniche, E quindi mi disse: facciamo all'americana, facciamo a improvvisare. Io, che ero un ragazzo di Foggia piuttosto timido e sprovveduto, dico: vabbè, se lo dice Boncompagni, facciamo improvvisare, improvvisiamo. Il timido Renzo, incalzato dallo spumeggiante e irrefrenabile Gianni, si lascia andare all'improvvisazione più sfrenata. Nessuna scaletta e nessuna preparazione come nella migliore tradizione jazz. Visto il suo amore per questo genere musicale, Arbore non fatica ad adattarsi e si lancia a sua volta in sfrenate jam session verbali, puntualmente sorretto dall'amico. Boncompagni è un istrione nato, un mattatore, forse un matto. È certamente il tassello necessario per l'esplosione del duo di conduttori più in voga tra gli anni 60 e 70. Certamente è stato determinante per il successo e di Bandiera Gialla e di Alto Gradimento, perché Gianni è assolutamente pragmatico, toscano, intelligentissimo, proiettato verso il futuro, tecnologicamente avanzato, vispo e naturalmente anche non con tanti problemi che ho io dovuti alla mia strana educazione cattolica, eccetera. Boncompagni è l'ingrediente mancante in grado di far emergere la spregiudicatezza anche da un ragazzo un po' timido come Renzo. Due indoli diverse e complementari, provenienti da luoghi diversi, eppure confluite dietro lo stesso microfono in un mirabile incrocio di talenti, oltre che di destini. Gian Domenico Boncompagni nasce ad Arezzo il 13 maggio del 1932, a 5 anni e svariati chilometri di distanza dal suo futuro amico Renzo Arbore. Chilometri che sono destinati ad aumentare ulteriormente, quando all'età di 18 anni si trasferisce in Svezia in cerca di fortuna. Non è un ragazzo posato, incline allo studio universitario come Renzo, ma un giovane ancora ansioso di scoprire quel che la vita e il mondo hanno da offrirgli. Patti Pravo, con la sua inconfondibile voce, canta Ragazzo Triste, brano del 1966, il cui testo è scritto proprio da Gianni Boncompagni. Un giovane decisamente eclettico, che sa spaziare dalla musica alla fotografia, dall'arte alla regia alla radio, senza apparente soluzione di continuità. Dopo il diploma all'Accademia Svedese di Grafica e Fotografia, Gianni resta a Stoccolma e si barcamena come può, dando il suo contributo anche presso l'Istituto Italiano di Cultura. Un giorno gli capita di fare da accompagnatore a Salvatore Quasimodo in persona, come lui stesso a raccontarci. Quasimodo, lo portammo a vedere tutte le cose di Stoccolma, io ero da tanti anni che ero là, e quindi mi aspettava di prendere il premio Nobel, e ci aveva 4-5 giorni. E perché portato... mandarono te, scusa tanto per cominciare, perché mandarono te a prendere Quasimodo? Perché io lavoravo per l'Istituto Italiano di Cultura, sapevo lo svedese e ero uno... italiano, e quindi ero all'altezza, insomma, della situazione secondo loro. Allora a un certo punto mi dice, dopo un po', che dopo 3 giorni di musei, dissi: ma qua non si fotte mai. Mi scandalizzai un po', il premio Nobel. Dopo l'esperienza svedese, Gianni decide di tornare in Italia. Fa domanda in Rai in qualità di fotografo di scena. Ottiene il posto, ma quel ruolo in realtà gli sta stretto. Preferirebbe entrare nel vivo, fare qualcosa di più coinvolgente, qualcosa che gli consenta di mettere in mostra la sua verve, il suo carisma. È il 1964, quando al concorso di maestro programmatore di musica leggera incontra Renzo Arbore. Io sono riflessivo, molto radicato con il passato, però grande, dotato di grande memoria, anche di energia, e poi sono più organizzato di lui. Renzo e Gianni diventano subito amici, condividono la passione per la musica e il gusto per l'innovazione e la sperimentazione. Per il resto sono diversissimi, ed è proprio da questo attrito che nasce la magia del duo. La differenza caratteriale tra i due è servita moltissimo. Io, per la mia meridionalità, l'istinto, e Gianni per il raziocinio e le altre qualità, tra le quali soprattutto il pragmatismo. Dopo l'esperienza di successo alla conduzione di Bandiera Gialla, i destini di Boncompagni e Arbore sembrano separarsi. Arbore approda sul piccolo schermo, dove inventa il primo talk show della storia della televisione italiana. Quello speciale per voi, dove artisti vecchi e nuovi, tra cui Lucio Battisti, Claudio Villa, si esibiscono per poi lasciarsi seppellire dalle critiche di un pubblico di giovani feroci armati di microfono. Boncompagni, dopo qualche incursione nel mondo della musica leggera, continua l'esperienza radiofonica, ma senza gli stessi brillantissimi risultati ottenuti insieme ad Arbore. Boncompagni veniva da un altro programma, si chiamava 3131, che era la prima volta che il pubblico aveva diritto, aveva l'accesso alla radio, quindi però il programma era partito come un programma dove tutti si poteva parlare di tutto, eccetera, ma poi aveva preso una piega piagnucolosa un po', perché naturalmente cominciavano a telefonare le persone che avevano problemi, eccetera, e tante altre cose, fino insomma alla prima fase di questo programma era una fase, era diventato un programma molto triste, molto sentito, molto ascoltato, per carità, nobile, però non certo brillante. E allora, incontrandoci io e Gianni, abbiamo detto: senti, ma perché non facciamo un programma controcorrente, dove invece di fare l'impegno di tutta questa generazione di 60 tuttini che guardavano con sospetto una risata, e lui invece di fare la radio del dolore, eccetera, facciamo una radio per tenere allegri gli italiani. Alto gradimento è proprio questo. Una radio che vuole tenere alto il morale di un popolo durante anni difficili segnati dal terrorismo. Con la complicità di comici strepitosi come Mario Marenco e i fratelli Giorgio e Franco Bracardi, la trasmissione procede come una collezione di personaggi assurdi, trovate geniali, idiozie, dialoghi strampalati e tanta buona musica. Tra un'incursione della dottoressa Ada Venzolato in De Martiris, femminista che fumava la pipa, del professor Aristo Gitone e dello stilista Jean-Jacques Le Baron de la Fiche de la Bagarre, Renzo e Gianni ne approfittano per far sentire i dischi che amano e per lanciarsi in folli e riuscitissime improvvisazioni verbali. E abbiamo inventato letteralmente, lo dico con un po' di presunzione, l'improvvisazione alla radio. Prima di noi, alla radio italiana, e non c'erano le altre radio, tutto quello che veniva ascoltato veniva letto e controllato e vidimato e controfirmato dai dirigenti di allora. Anche le rubriche come il Discobolo, come queste cose, erano tutte scritte e controllate, firmate da un dirigente e poi mandate in onda. Mentre noi abbiamo inventato l'improvvisazione in radio. Il titolo originale di Alto Gradimento avrebbe dovuto essere Musica e Puttanate, un nome un po' irriverente forse, eppure foriero dello spirito dischiuso magistralmente dalla trasmissione, quello del cazzeggio produttivo, spiritoso, in grado di divertire milioni di ascoltatori, un intrattenimento comico, ridicolo, ma allo stesso tempo intelligente, dove la musica la fa da padrona. Destini incrociati. Però c'è una ragione più importante dietro Musica e Puttanate. La ragione è questa: noi volevamo andare controcorrente. Nel 70 l'Italia partiva con gli anni di piombo, che erano cominciati nel 68. Che ne dica qualcuno, erano anni terribili, anni nei quali la risata veniva bandita. Sì, c'erano schese, c'erano quelli là il sabato sera, ma insomma i giovani. In quegli anni così difficili per il nostro paese, Renzo Arbore e Gianni Boncompagni conducono Alto Gradimento, la trasmissione che sa risollevare il morale degli italiani con un mix irresistibile di musica e sketch comici, sorretti dal talento e dalle funamboliche improvvisazioni di due amici dietro al microfono. Noi siamo partiti dalla voglia di cazzeggiare insieme, perché incontrandoci anche con gli amici c'era questa jam session delle parole tra me e lui, scherzi, riflessioni, letture anche, eccetera. I due caratteri di Arbore e Boncompagni si fondono alla perfezione in un tutt'uno armonioso. Compito di Renzo, in un certo senso, è ricomporre ad arte il coro affollato di voci della trasmissione. Quella materia informe che veniva fuori, soprattutto ad alto gradimento, tra Boncompagni, Marenco, Bracardi, eccetera, poi veniva in qualche maniera regolata da me, però tutto questo con un animo rivoluzionario che ho ereditato da un mio lontano antenato, e quindi ho questa cosa del passato, ma non sono quello calmo. Pacato solo all'apparenza, l'esperienza di alto gradimento fa letteralmente esplodere in Renzo la voglia già presente e mai sopita di improvvisare. Improvvisazione che poi naturalmente io ho cavalcato da jazzista, sia nei programmi radio sia nei programmi televisivi, e quindi devo anche ringraziare Gianni per questo, perché mi ha dato il là per fare la TV e la radio improvvisata, rigorosamente improvvisata, cosa che non fa quasi nessuno oggi, e me ne dispiace. Ho degli amici con i quali mi diverto a improvvisare, ma sono pochissimi. Tra il 1976 e il 1979 Renzo conduce L'altra domenica, folle alternativa sul secondo canale alla più tradizionale e istituzionale Domenica In, condotta da Corrado su Rai 1. Ma è negli anni 80 che il suo genio esplode in maniera incontenibile. Quelli della notte è un programma durato appena 33 puntate, andate in onda ogni sera fra l'aprile e il giugno del 1985. Ad Arbore sono bastati meno di 3 mesi per creare un cult indimenticabile. Tu ti guardi allo specchio e ti sputi in un occhio, ma la notte no, ma comincia il lavoro e dimentichi il cuore, ma la notte no, parli sempre soltanto delle cose importanti, ma la notte no, e ti perdi la stima se non trovi la rima, ma la notte no, ti distrugge lo stress e dimentichi il sesso, ma la notte no. Quelli della notte ha tenuto svegli tantissimi italiani nella primavera inoltrata del 1985, allietandoli con canzoni dalle rime inconsuete, personaggi strampalati ed esibizioni decisamente fuori dall'ordinario. C'ho un nanetto che casca a asino su questo degli aspetti, no? Sì, questo neanche guarda, l'ho capito io come fatto che casca asino. Casca asino. A pennello si diceva una volta, ma invece non si dice più. Casca asino, è uguale. Signor Alberi, guardi, era il 5, 4, 3, 2, 1, 0, agosto del 1000. Dell'anno 1000. Sani Gesualdi, era una notte di freddo tropicale. Sani Gesualdi passeggiava attorno al Duomo. Ora arriviamo al punto, eh. Passeggiava attorno al Duomo e vide un pezzo di Duomo. Un bel pezzo d'uomo. Un giovane. I discorsi deliranti di frate Antonino da Scasazza trasformano Nino Frassica in una celebrità. Sarà lui infatti il conduttore di Indietro Tutta, nuovo successo del 1987 targato Arbore. Anche Boncompagni si dà da fare. Se alla fine degli anni 70 era stato il conduttore del mitico Disco Ring, negli anni 80 preferisce passare alla regia e ha un approccio di tipo più defilato, di autore Deus Ex Machina. Uno dei suoi primi grandi successi è il popolarissimo Pronto Raffaella, condotto dalla Carrà e sostanziato dall'indimenticabile quiz dei fagioli. Arriva il famoso, ormai famoso, quiz dei fagioli, che è arrivato esattamente a 900.000 lire. Insomma, non è male, no? Questo è il contenitore, quanti fagioli ci sono dentro? Punto interrogativo. Pronto? Il folle sperimentatore Boncompagni, all'inizio degli anni 90, si inventa un contenitore pomeridiano di adolescenza e sbalzi ormonali, criticatissimo eppure seguitissimo. È il famoso e famigerato Non è la Rai, la cui mattatrice è la sedicenne Ambra Angiolini, rigorosamente munita di auricolare. Bene, bene, allora, Non è la Rai, anno primo. 3 anni fa, cioè, ecco. Vi dico subito che io non c'ero perché io facevo l'asilo, quindi non potevo esserci, ecco. Anche se le loro carriere dopo alto gradimento sono proseguite su binari separati, Arbore e Boncompagni sono sempre rimasti molto amici. Pensa che noi in tanti anni di lavoro, lo dico perché lo devo dire, non abbiamo mai litigato, vero o no? Sì, vero. Ti ricordi sì, una volta che abbiamo discusso? No, manco sempre discusso. Guarda che è raro, Quegli anni di improvvisazione radiofonica, fianco a fianco, hanno profondamente segnato lo stile di entrambi e in particolare quello di Arbore, come lui stesso a raccontare. Le trasmissioni che mi hanno dato più successo, come quelle della notte e Indietro tutta, erano totalmente improvvisate. Non ci crede nessuno, però è la pura verità. Io dicevo il tema della serata alle 11 di sera, a tutti i componenti del cast di Quelli della Notte, e alle 11:10 andavamo in onda e loro si arrampicavano sugli specchi per essere spiritosi, ma questo era il bello di quella trasmissione. E però quello è il bello di quella televisione lì, è una televisione che io paragono al jazz, quella che ho fatto io nella mia vita e che continuo a fare anche quando con l'orchestra italiana vado in giro per l'Italia. La scuola di alto gradimento ha formato due fra i talenti più fulgidi della televisione italiana. Arbore e Boncompagni sono la dimostrazione che, improvvisando, si impara. Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto.